Eccoci ad un altro appuntamento per parlare di un curioso festival, il Festival dello Spettatore ad Arezzo dal 19 al 23 di ottobre. Ne parliamo con Laura Caruso, che è in linea. Ci sei, Laura? Ciao, buongiorno a tutti. Benvenuta al Radio Teatro su Onda Rossa. Ciao, grazie mille di questo invito. Ci fa piacere poter parlare di questo che è un'edizione numero zero. Edizione numero zero. Festival dello Spettatore, di cosa si tratta? Allora, si tratta di 5 giorni ad Arezzo, un festival, quindi fatto di tanti appuntamenti, sicuramente di spettacolo, ma con un approccio che nasce da un'esperienza che è quella del progetto degli spettatori erranti, un progetto sostenuto da Rete Teatrale Aretina e da altri soggetti che ha creato dal 2010 fino ad oggi, e naturalmente il progetto prosegue, un gruppo di spettatori che va a teatro insieme, va a cercare in particolare un teatro che meno conosce, che come dire alle volte è più faticoso per lo spettatore riconoscere certe compagnie o certi titoli, perché magari appartengono a, sono di nuova drammaturgia, o perché sono giovani compagnie, o magari sono linguaggi sperimentali. Noi cerchiamo, attraverso questo lavoro con il gruppo degli spettatori erranti, appunto di avvicinare ai nuovi linguaggi. Da questa esperienza, che è stata così proficua in questi anni e così cresciuta, è nata il Festival dello Spettatore, perché Rete Teatrale Aretina appunto ha pensato di creare una 5 giorni nella città di Arezzo dedicata allo spettatore. Non perché noi anzi amiamo e sentiamo che l'energia che ci spinge viene dalla scena. Ci sembra però importante focalizzare su quello che è il ruolo attivo dello spettatore, perché nello spettacolo dal vivo veramente c'è la creazione di senso e veramente il percorso è fatto dagli artisti insieme agli spettatori, in dialogo. E gli spettatori è bene che prendano coscienza di questo ruolo così attivo, perché è gratificante e altrettanto è una responsabilità. Tra le varie cose, infatti, c'è in programma una gran reunion di spettatori d'Italia, perché in questi anni noi, andando in giro per i teatri della provincia di Arezzo e per altri festival, per esempio festival come Kilowatt o Primavera dei Teatri a Castrovillari o Terni Festival, abbiamo conosciuto altri gruppi di spettatori e li abbiamo invitati. Verranno praticamente quasi 100 persone ad Arezzo, si incontreranno e ci sarà un incontro di scambio di esperienze, il primo grande raduno nazionale di spettatori d'Italia. E vorrebbe essere un po' anche un modo bello per poter iniziare quello che poi è la stagione, sono le stagioni teatrali, perché dopo così l'inebriante esperienza degli festival poi ci sono le stagioni, quindi ognuno nei propri territori magari frequenta dei teatri ed è bello se lo fa con quello spirito appunto attivo e partecipe, che è quello che noi stiamo in qualche maniera cercando di costruire. Tra l'altro, oltre a questo poi stavi continuando, vai. No, oltre a questo poi ci sono altre iniziative, ci sono 3 spettacoli e 2 film, perché partiamo dal Racconto d'inverno di Shakespeare, quindi in qualche maniera anche ibridando i linguaggi. E poi c'è una giornata di studio che facciamo con l'Università degli Studi di Siena nella sede di Arezzo, perché ci fa piacere che questa nostra esperienza incontri gli attori sociali che fanno parte della città, quindi sicuramente l'università è uno dei poli più importanti, e lì facciamo una giornata di studi che si chiama Partecipazione e Cittadinanza, in cui ragioniamo su quello che si dice audience development, no? Perché le politiche europee un po' ci hanno aiutato a familiarizzare con questo concetto di partecipazione, che sta ispirando poi anche le politiche ministeriali e regionali. E stiamo anche capendo come questo pensiero di partecipazione attiva caratterizza non soltanto il teatro, ma altri settori della progettazione culturale e sociale, quindi la rigenerazione degli spazi urbani, tutto il tema del terzo paesaggio e anche degli orti sociali, quindi un modo nuovo di collaborare ad alcune attività che sono finalizzate spesso non tanto nel creare nuovi agricoltori, come nel caso dell'agricoltura sociale, ma nel creare consapevolezza e partecipazione. Ecco, questo noi lo facciamo a teatro, in dialogo con i linguaggi della scena, in altri settori si fa con diverse materie. Crediamo che sia importante che il teatro sia un luogo dove veramente ci si confronta con altre fette di azione sui territori, e quindi questo ci vuole connettere ad un pensiero veramente contemporaneo. E poi l'ultima cosa che mi fa piacere segnalare è che c'è un grande lavoro con le scuole superiori e le scuole anche di le medie inferiori, sia per farle come spettatori attivi agli spettacoli, ma loro saranno l'osservatorio del festival, quindi restituiranno per scritto, anche in collaborazione con un giornale locale, il loro punto di vista. Questo veramente perché vogliamo essere un po' un collettore veramente di tante fette, di tante parti del tessuto, insomma. Un'ultima cosa sugli spettacoli che avete scelto per questi giorni. Tra i nomi vedo Antonio Rezza, che è solito coinvolgere i suoi spettatori negli spettacoli. Per quanto riguarda il resto? Allora, abbiamo Gianni di Caroline Baglioni, della compagnia Società dello Spettacolo, perché è un testo di nuova drammaturgia e appunto vorremmo veramente avvicinare quindi al nuovo. Tra l'altro, prima dello spettacolo Gianni facciamo un incontro con una storica della lingua e glottologa, perché lo spettacolo Gianni è costruito a partire da registrazioni che l'autrice ha trovato di un parente, e attraverso queste registrazioni è costruito lo spettacolo. Abbiamo posto questa domanda alla nostra glottologa, che si occupa di archivi sonori: come la registrazione di una voce presa in un dato tempo, in un dato contesto, diventa un racconto utile e importante per tutti. Il lavoro dell'artista e dello studioso un po' fanno questo, dalla storia particolare diventare un racconto che arriva a un grande pubblico. Ecco, questo è uno dei metodi erranti per cui noi dagli spettacoli cerchiamo di trarre alcuni elementi di interesse e li approfondiamo insieme al pubblico, non per spiegare lo spettacolo, perché non crediamo ci sia nulla da spiegare, ma per dare delle chiavi di lettura nuove, alternative, come dire, in modo tale da creare punti e magari anche creare nuove curiosità, aprire nuove strade. Sì, poi. Il terzo spettacolo è Il Piccolo Principe delle Officine della Cultura. In questo caso in scena c'è il testo che conosciamo, ma anche qui emergono gli aspetti nuovi, perché ci sono poi musicisti con musiche originali in scena e i disegni di Alvalenti, quindi anche qui un lavoro che ibrida linguaggi diversi. E poi, oltre al film che ho detto, Il Racconto d'Inverno, chiudiamo con il film di Antonio Rezza e Flavia Mastrella, Milano via Padova. La presenza di Antonio Rezza per noi è veramente ci fa piacere, perché ha quel rapporto così diretto con il pubblico, che in qualche maniera il pubblico non viene compiaciuto, questo pubblico, però altrettanto è concretamente un personaggio con cui Rezza dialoga in scena, no? Certo, continuamente punzecchiato. Anzi, infatti, noi ci piace questo modo, un po' riflettivamo in questi giorni. Crediamo che il pubblico, se formato, se guidato, se in qualche maniera questo tipo di percorsi ci fanno osservare che il pubblico non desidera essere appunto vezzeggiato, o non è che cerca di trovare pace, cerca di veramente partecipare a quel percorso, come dicevamo prima, di ricerca di senso. E quindi, insomma, ecco, Rezza lo fa anche in un modo provocatorio, per cui in qualche maniera non è esattamente, non ha quell'approccio proprio facile, però penso che sarà una bella prova per il nostro pubblico. Certo. In chiusura, Laura, i riferimenti web per saperne di più? Sì, allora, chiaramente la pagina Facebook di Spettatori Erranti e Rete Teatrale, e poi segnalo il sito spettatorierranti.it, perché è un sito che è giovanissimo, ha veramente qualche giorno di vita, e lì chi vuole, da tutta Italia, può scrivere una scheda di visione degli spettacoli che vede ovunque, in ciascun teatro lo spettatore frequenti, e questo va a creare una sorta di archivio di impressioni di spettatori d'Italia, e quindi ci fa piacere che il nostro sito non sia soltanto legato alle nostre attività, ma in qualche maniera sia un luogo aperto a tutti, dove gli spettatori in qualche maniera possono avere uno stimolo per riflettere e per lasciare una propria riflessione su ciò che vedono. Ci si vede ad Arezzo. Vi aspettiamo. Ciao Laura. Grazie a tutti. Allora, ciao. Ricordiamolo, Festival dello Spettatore ad Arezzo dal 19 al 23 di ottobre. Un in bocca al lupo.